parlare poco, gira. Positivo Gianni, ti sto ascoltando su un segnale di Spray, la radio comprensibile. Ben sentito Gianni. Saluti anche a Marco e buonasera anche a te. K2 Agro di Udine, rilancio un attimino a Capri 2, voglio vedere se mi ha copiato. Riprendi Capri e poi vai a girare per gli amici. Thank you. 50 mega, ecco, ma che apparato è? Ma tutte le frequenze anche V e le H? Sì, sì, capa. Io sono la linea dritta, sono gli AES che devo fare tutto controllare, anch'io già ne ho di roba HS. Poi c'ho un altro baracchino già che praticamente forse non va in trasmissione, il Coguar 23, che però mi sa che non va in trasmissione, tu perché non c'ho microfono e ancora non l'ho provato. C'è un'ottima radio però, perché lo uso in ricezione, però ancora non sono riuscito a trasmettere. Va bene, riprendi Gianni, vai. Va. Va bene così. Andave, Marco Condor. Sono a casa alle 16.00. Non ho capito l'ultima frase, già, vedi, anche io sono così basso. Ho detto, torna a casa lì, si decidi, capisci a me. Comunque il discorso che ha fatto Capri 2 lo capisco, è la stessa cosa che ho detto io, che è perfettamente inutile avere un apparato di quel tipo là per starsene su un canale o massimo due canali in AM addirittura, capisci, è poco sfruttato. Questo del resto, questo che c'è sotto. Grazie perché te l'hai preso. A me piace ascoltare però le altre bande. Per quello è molto positivo, eh. Beh. Ognuno c'è il suo perché, Capri 2 perché si tuffa subito, gli piacciono solo le radio vintage, Capri 2, lui è un vintage. Un po' lo capisco. Attenzione invece, K2, come si chiama? K2, da Usini? Che poi sembra la stessa persona, parlano uguali. Ok, attenzione K2. Ti sento Marco, ti sento, tutto bene. Però stai arrivando bene da me. rinfrescami la memoria, da dove, da che zona stiamo volando? Allora, Sassari, zona Cinema Ariston, non so se lo conosci il Cinema Ariston, il fu Cinema Ariston. Sì, capo, ah, capito, va bene, già va bene, allora già va bene. Ok, vai già, già mi doppierò. Ho capito, non c'è problema. Non mette problema. Capito, pensavo che stavo dando un tutto, se no te l'avrei preso io, dai. Lo dopo con l'MC60 pensavo. Niente, e quindi c'hai anche qualche Alfa Lima o K2? Chiappa, è un signor Alfa Lima, ha un kilowatt di potenza e un armadio qua, ed è inutilizzato da tanto tempo, lo accendo ogni tanto e sembra che funzioni tutto bene, c'è il wattmetro e qualche altra cosa, ma non ricordo. Però non avendo possibilità di impiegarlo è sempre rimasto un po' parcheggiato. Infatti se qualche giorno mi salta il PDD, lo attacco al CB qua. E così quelle cornate che si posano sull'antenna ne scendono a rosso. Intanto la moto va fino a 2000 watt di rete. Infatti, ho letto. Quindi, secondo come, guarda. Glielo provo, giusto così, una curiosità, Allora ricordati di mettere sempre dei PL buoni, Anfenolo PL buoni, perché se te li scioglie. Sì. Ok. Vai ancora Capri 2, tu se stai uscendo senza niente. Sto arrivando bene, 5 qua. Mentre prima, quando non avevo antenna, si ascoltava 1, 2, molto difficoltoso e anche l'ascolto. Adesso veramente ho migliorato io più che altro, quindi adesso va bene anche per la tua zona, ero negativo. Armonica, la sono sempre, Capri 2. Capri 2 è molto bravo questo anno la fisarmonica. Io l'ho sentito, hanno fatto anche una serata con mia figlia che canta. L'ho sentito molto bravo. Sono passati di anni e sai quando ti ho conosciuto Capri tu avevi, sì, forse eri sposato e i bambini forse erano piccoli, ne sono passati di anni vabbè, hai visto. Ok, vai Marco. Chiedere a K2 come arrivo da lui, sto usando 3 watt e mezzo, vedi un po', 1, 2, 3. Tu sei 8 e qualcosa, con picchi 8 e mezzo, 9 dai, sto arrivando molto bene, la radio è chiarissima proprio, va benissimo. Ok, a parte la voce da orco che mi è venuta, prendi capi 2, vedi un po' come sono io da te. 3,5 watt. dice Vittore, sintonia continua. Ma cosa del genere già mi interessa, sono un po' a terra. Non ho niente. Io faccio molto ascolto e le orecchie sembrano buone ancora. E mi interesserebbe uno scanner, voi non ne avrete, no? Se ti prendi il doppio rosso. Un attimo. Quality per me, riprendo dalla macchina più tardi, ciao a tutti. Ciao Marco, buon quality. Io ce l'ho, ma serve a me, quello che uso io, dai, ci ascolto io qualche volta, non è che lo uso sempre, guarda. Ci fai un po' di ascolto. Ho capito, e allora c'è per te. Sai, a volte ne trovi come qualcuno che ne ha 4, 5, 6, magari non li trovo. Ma c'è parola, là, e casomai senti qualcosa di abbordabile, chiaramente. E io adesso ho, vabbè, un guacchetto marino e basta. A parte un ricevitore per le HS, della Kenwood, per le Musa, e basta. Però mi mancano tutte le altre frequenze, pure UHF, Sanda Aeronautica, quelle cose lì. Allora, capiterà prima o poi. Mi prendi Gianni? Non più rumo KP2 e cerca di... comunque se vai su internet ce ne sono parecchi. No, ci sono qua. Si è rimbalzato la scelta. Sì, ma non mi fido da internet, non fido mai niente. Mi piace trattare di persone. Internet è per me, anche, vabbè non ce l'ho, io sono l'unico che non ha internet, quindi, ma non mi interessa nemmeno la guerra. E quindi per me acquistare è tutto negativo in quel modo. Mi prendi Capri 2, via. Aggiornati. Aggiornati, troppo cari sono queste compagnie che ho conosciuto, troppo cari. Poi da me non prende, capito, non c'è linea fissa di telefono, quindi non posso mettere a DSL. E in più la chiavetta non riesce a partire, non in grado perché non arriva il segnale. Se non arriva a segnare allora hai perso, se no ci sarebbero stati anche i telefonini che vanno su internet come ce l'ho io, ti connetti col telefonino e via. Ma non ce la fa, avevo fatto l'abbonamento un periodo con la chiavetta, avevo caricato lì e partiva, si attivava il GPS, lì partiva il GPS, ma quando aprire una pagina facevo in tempo a mettere l'acqua sul fuoco, buttare la pasta, mangiare e mi stava ancora caricando. Ma bisogna che compagnia scelta, magari se lo fai con Vodafone oppure con Telecom, si riesce ad essere più veloci. Infatti era Vodafone la compagnia. E allora lì in quella zona non prende, ma ci sono delle compagnie che magari prendono in certe zone e in altre no, capito? Dipende. Bisogna che ti informi, quando vai a usi non c'è il computer che prende su internet. Il paese è perfetto, è forte anche il segnale, è la zona, il buco dove sono io. La zona di campagna del lago, dai. Ho capito. Gianni KP2, avanti. Cosa stai usando? questo. Oh, per me non è scappa, non si sente nulla di amplificazione, niente, No, il mio appena acceso amplificava subito. Era lo senti? E adesso sì. Ma non c'è bisogno di tenerlo, hai capito? Però sono toccata di questa stanza della solo, non è stato il 440. E il capato è come mi ascolti da questo. Guarda, adesso che gli hai dato un po' di amplificazione, la radio è migliorata. È abbastanza forte. Il segnale è sempre lo stesso, 5, a volte dei picchi di 5 mezzo o quasi 6. Riprendi il doppio rombo. Adesso mi trovi qualche bella giornata, se ti serve una mano vado a fare un fischio. Cappa, già ne tengo conto, doppio rombo, già ne tengo conto. Io sono un tipo molto organizzato, ma poi c'ho anche il tempo a comodità, capito? Non fare un po' attenzione nei vari rettegole, sono già rimasto tutto a comodità, anche perché quando la stavo costruendo insomma ho tenuto conto di dovevo installare antenne, anche se poi c'è stata una modifica in corso d'opera. Mia moglie ha voluto un tetto particolare, io lo volevo fare in un modo per avere più tranquillità per le antenne, e l'ha voluto fare in un altro modo. E quindi poi la notte ne abbiamo discusso a letto e ha avuto lì. E caso mai? Caso si butta il verme nei guai. Infatti, ma già mi sono puntata anch'io la notte. Dove fai? Non pensa come volevo lì, non pensa come volevi tu. Dove volevi tu ti piace avere antenne. Non era possibile. Quindi io mi sono ritrovato un tetto a 9 falde. Avanti la portante. Ok, adesso ci siamo e noi stiamo regolando il tutto perché Gianni lo vuole per lo pimpante. E Mariolio come lì di capito. Io che la tua sono buttato veramente male, è malissimo, sto malissimo, ma concordo non è rientrato. No, ha detto che riprendeva dalla macchina più tarda. Andrà bene, K2 riprendi. Mi sono spaventato. 7 e mezzo la radio fortissima, ma cos'è dietro qua sotto dentro? Bene già, molto forte. Ogni volta io faccio i complimenti e poi non si sente più. Perché si scioglie? Ma Gianni, ho capri due in giuggiole, sei andato. Gianni era dell'arma, mi lo sa. Eia, è un ex-CC. Io non so perché se ne è stato dal carabinieri, io ho pensato di entrarci, guarda, quando ero ragazzino, 17 anni, avevo fatto la domanda. già allora ci volevano in corso, ma è anche grandi, capisco. Se allora ho ripiegato in quel mestiere che tu sai. Sì, anche un mio amico così. Lui si vergognava però perché era robusto, molto robusto. Praticamente aveva vergogna a fare la domanda, perché dice magari non trovano la divisa per me, questo e quell'altro, però le armi gli sono sempre piaciute, andava, tu pensa che poi alla fine ha trovato vicino a Treviso un lavoro come guardia giurata. Partito a Treviso, però prima di partire ha detto ascolta, c'ho queste misure, ce l'avete? No, no, le facciamo su misura, le divise, non c'è problema, parta subito che è già preso. Dalle 1200 avranno fatto fare il decreto qua a Sassari, poi ha dovuto fare sia al comune di Oderzo di Treviso, perché solo dovevano fare due comuni, lui faceva 300 km a notte per mettere i bigliettini all'inizio, adesso sta lavorando con la Mondial Pool e sta con i furgoni blindati. Sì, ma forse lo conosco, lo sai, questo dei 300 chilometri a notte, ma ha lavorato anche nella tua sarta per caso? No, lui è partito direttamente fuori a Oderzo vicino a Treviso, adesso si è sposato vicino a Treviso, poi ha lavorato con tre ditte diverse, sempre aumentando di stipendio, adesso dov'è? Si fa un orario da signore, fa dalle 8 alle 2 e poi ha finito, fa blindato, lui guida il blindato e dalle 8 alle 2 e poi ha finito. Un attimino chi vuole entrare. Sì. No, era la vigilanza Sardegna. Mi sembra che... non mi ricordo come si chiama. Perché questa storia dei 300 km a notte lavorava al confine, mi sembra, no? Confermi. Lavorava, faceva due città, Oderzo e Treviso faceva. E poi non so se c'era anche zone di Mito, questo non lo so, però lui a Sassari non ha mai lavorato come guardia giurata, è partito direttamente fuori, perché fuori non ne fanno guardia giurata, perché assalgono furgoni, posso dire, le ville vanno a rubare, questi albanesi, questa gente qua, un suo collega ha detto che ha visto questo che stava rubando una villa, gli ha puntato la pistola, anche se li sono saltati dal tetto, altri quattro li hanno disarmato, hanno picchiato e hanno rubato anche la pistola. Fuori è difficile, è troppo rischioso lavorare. Non è come qua, noi qua siamo ancora in paradiso per certi versi, anche se il pericolo c'è sempre, devi avere sempre i quattrucchi, però fuori c'è più, sono più schiattati tutto lì. Chi è che vuole entrare? Avanti, buonasera, K2 in compagnia di Tokyo Rumbo qua. K2! Siamo qua, ogni tanto devo scendere a fare la maggiordoma, aprire la torta, riprendi già. Cosa devi mangiare la torta? Quello da maggiordoma sto facendo, aprendo la torta e chiudendo, ecco mi hanno rotto, riprendi. Dove eri tu, sei tu il capofamiglia, Lidia. Io prima non mi dovevo ammalare già. Già mi stavo ascoltando, riprendi Capalù. Lo so, continenti lì, quando esci in quel settore, guarda, non c'è bisogno di umiliarti a chiedere lavoro. Vai lì, ti presenti a qualsiasi istituto, ti mettono il tappeto rosso e ti fanno subito entrare. Ma lì cosa fai qua? Sembrano che stai chiedendo chissà che cosa. Invece fuori è tutto diverso da quella politica. Hai qualche ex collega lì, c'è salito. paio di mesi, mi sembra, 6-7 mesi, poi la nostalgia li ha fatti ritornare. E quando sei sposato, c'hai famiglia, è molto difficile. Doppio room? Tengo un secondo. Ok. Vai già, vai. Ok, e stavolta cosa stai combinando adesso, K2, di bello? Io sono disoccupato, sono troppo giovane per la pensione, troppo vecchio per il lavoro, non mi vuole più nessuno. Mi hanno licenziato nel 2010 come guardia giurata e non sono riuscito a trovare nient'altro. In questi anni mi ho preso la qualifica di muratore, mi arrangio a fare tante cose, però attualmente sono convinto nulla. Credo che va dappertutto così, dappertutto, c'è qui dappertutto, guarda, in tutti i settori. Io ho trovato sempre su tutti i mezzi di scuola, c'ho anche un pullman, però è fermo perché c'è crisi, non in inverno non gira, ma anche d'estate, non è che ho fatto molto, hai capito, mio figlio ce le fa senti, però diciamo proprio non ce n'è, non ce n'è, adesso poi con l'allarme, non so bene alle prime, al primo compito l'avevo messo all'altro, speriamo bene, io più di altro non posso fare perché, hai capito, non c'è niente in giro, ne ho anche un altro, quindi ne ho due, uno di 19, e lo stesso è a casa e purtroppo non sono il solo ad avere dei figli disoccupati, ripresi, capato poi c'è mamma casa. Brutta situazione, poveri figli nostri più avanti, secondo me, e già noi siamo in questa situazione, ma non c'è più serietà, non c'è più serietà, è vero che il lavoro scarseggia, però c'è troppa disonestà in giro, tutti i papponi al governo, li vogliono tutti mitragliati, e troppo sperpero di denaro pubblico. E noi non abbiamo più tempo per aspettare che le cose cambiano. Forse le nuove generazioni avranno la possibilità, ma la mia generazione mi sa che bella è fatta. Mi dessero almeno la pensioncina, guarda, anche 500 euro giusto per riuscire a mangiare. E invece niente. No, si sa cosa, di che morte devi morire, se di vecchiaia o di fame, no? E qualcosa diciamo, la cosa di vecchiaia la papà a 60 anni, forse in giro, la papà a 60 anni bisogna accettare. Hai rilasciato a me? 60 anni, a posto siamo. Ma stiamo andando a sì, sicuramente andremo a finire a quell'età lì, non c'è più sicurezza né di pensione né di stipendio, non c'è più sicurezza di niente, si può fregare di più e basta. I lavori ormai fissi ormai non li so più, ma anche nei settori pubblici, diciamo che ci sono questi part-time, capito? E tutto quanto lo fa il lavoro sicuro, non c'è più, capito, non c'è più. E siamo arrivati l'una e la propria perché siamo tutti al mondo e tutte queste belle cose. Dicono da quando siamo entrati in Europa, ma anche da prima, non è che era tuttora quello che non ci cava e bisogna però adattarsi fino a quando ci può adattare naturalmente. E io bene o male sono un po' istate, qualcosa mi rimane però niente, sotto fortuna, che a me è neanche passivo, tutto il suo passivo, però poi mi sta portando la ferma, perché non c'è niente in giro, hai capito? Prima, perché c'è anche la concorrenza, il Puma mio adesso c'ha, è dell'89, mi sembra, sì, 89, capito, fa il 3, quindi devi fare due pesi, devi stare dentro con gasolio, adesso c'è il Puma, consumano molto meno, e quindi chi c'è di là gioca anche con quello K2. Cioè, l'amico mio di più avi Lucia da di Puma, che lo conosce a parte, e si arrabbia nei presi, perché io molte volte faccio dei viaggi ad altre persone, e poi fatto mai viaggio non fatele, avete fatto un prezzo più, e così è la vita, è fatta anche di quello, K2 di presi. Gianni, si sta sporcando quella radio, non si ascolta bene come primo, è molto tutta e gracchiante, è successo qualcosa, mi è toccato qualcosa. Io sto sentendo questa molta propagazione, ma la radio mia sta dicendo? Sì, la tua radio già, adesso sei arrivato meglio. Ok, lo sai come già ho detto a Gianni? Ora aspetta, dovremmo tenere a debita distanza perché è molto sensibile con la regista. La caricata mi sta causando delle interferenze su un computer, questa roba non ce la riesco a capire. E infatti non so neanche che sto attendendo. Ok, capato, comunque adesso mi sono allontanato il microfono. Mi sono allontanato e quindi adesso sarà sicuramente molto più pulita la radio. Si conferma, è molto più pulita, ma poco fa quell'ultimo passaggio è stato proprio critico, e anch'io ho l'abitudine di attaccarmi in mic alla bocca, adesso anch'io l'ho distanziato un attimino, e questo però non è amplificato e non sa nulla, anzi è anche piccolino per la mia mano, non mi piace molto. Però questo so e basta, capito? La curiosità adesso è di provare questo Coguar 23, anche questo l'ho recuperato, era mezzo morto, però c'ha microfono e ne ho uno a tre pin, però non va in trasmissione, l'ho provato, mi devo attaccare per non farci, adesso non so se è colpa del microfono o dell'apparato. Poi mi dirai già, allora ripasso la doppio room se sei arrivato. Già, no dai, se l'ascolto io, non posso parlare, dai, se l'ascolto. Ciao già, buon riposo. D'accordo Gianni, d'accordo. Vai Capridu, che l'amico, c'è l'amico, vuole entrare, lì avanti. Scusate, sono tra i palazzi. Ciao Capri 2, ciao K2. Ok, l'amico dei palazzi. Ma che sei figo dei palazzi? Ok, dai. Mi prendi Capri. Vero. No, è da Marco, c'è anche Antonello. Antonello, buonasera. Antonio. Non da camera per pensare. Ti stiamo dicendo il Coward 23 canali, sai? Sì, e cos'è che non vai, come si chiama, mi stai dicendo, trasmissione, io la conosco benissimo quell'apparecchio, c'ho anche gli schemi. Ah, davvero, io non so nulla di questo apparato, guarda, è molto intuitivo, però non c'ho niente, e non ho mai fatto io riparazioni, microfoni, queste cose, non so, veramente, ho tanti microfoni, però ne ho solo uno a tre pin, e ho provato lì a connetterlo, ma non va in trasmissione, quindi adesso non so se è colpa del microfono o colpa dell'apparato, che magari ha qualcosa in trasmissione, ricevere bene, c'è anche un'ottima radio, bella forte, però non va, però è da provare chiaramente, ti prendi già. E sai cos'è il K2? C'è l'apparecchiatura, l'apparato c'è il relè, quasi che sia storto il relè quando vai a pigliare, diciamo che non hai capito, non fa contatto, sei rimasto molto fermo, non so se c'è il relè, anche io qui nel, come si chiama, c'ho tutti gli schemari, hai capito, e diciamo, bisogna vedere quale, diciamo, dove lo è, c'è un stazione base, com'è questo apparecchio? superiore che sembra un coso di legno, dai, diciamo. Poi sulla sinistra c'ha i comandi per le stazionarie, poi c'ha il quadrato dello smitter, poi c'ha, che non so a cosa serve, questa levetta dove c'è un più e un meno, e non so a cosa serve. Se lo metto a meno non va in trasmissione, a meno che non sia il PA questo, e se lo metto a centro va bene, e poi c'è il più che va bene lo stesso, e poi non c'è altro. Allora, quello del delta fune per il centraggio, capito, di frequenza, il delta fune, però diciamo se l'apparecchiatura per ricezione, sicuramente se prima funzionava, hai capito, non penso che ci siano scattati finali di trasmissione, c'è qualcosa da far vedere, hai capito, il microfono è l'originale, confermi? No, già, io microfono me l'hanno dato, che senza microfono, e l'ho sempre usato in ricezione, non ha mai trasmesso. Poi io ho una cassettina di microfoni, me ne ho cercato uno a tre pinne e gliel'ho messo lì, ho provato, però non è andato in trasmissione, non l'hai citato, capito? Perché si vede che i collegamenti di quel microfono non vanno bene per quell'apparato, ma non ci vuole molto a fare i collegamenti, perché siamo distanti, se no se li avrei fatti in un attimo, hai capito? Perché non penso che sia l'apparecchio che sia partito, solo i microfoni allora che non vanno bene, che vogliono testarsi per quell'apparecchio, hai capito? Quindi non può fare altro che non sia altro, vuole attestare i microfoni. Ma e quindi dovrei aprire il baracchino e andare alla connessione dei pin e vedere un po' i fili e poi saltare, aprire lo spinotto, e non ne ho mai fatto io la verità di questi lavori, No, non devi aprire nel baracchino, non devi aprire nulla. Se l'avevo fatto vicino te l'avrei fatto in un attimo, te l'avrei fatto. Non devi toccare nulla, non lo devi aprire il baracchino. Vedi, non aprire, come si chiama del micro, io fa un test e lo faccio in un attimo, hai capito? Però non toccare nulla nel baracchino, per carità, non aprirlo, che sono di microfono, hai capito? Che sono di microfono, anzi, per me è facile, perché io con lo schema dell'apparecchio riesco subito a metterlo a posto. Ma io non so niente già, non so schema, non so niente, quindi ce l'ho così in ricezione, solo che adesso. Tonello, sei qua. Questo apparato lo vorrei mettere, uno in macchina e uno in stazione fissa, perché devo stare sempre 10 soldi, 10 soldi di rompere le scatole. Quindi adesso che ho un'antenna, l'omicidente qua, in stazione fissa, voglio lasciare questo, me lo metto in macchina, questo c'ha anche le bande laterali, è un Cyberbander secondo SDE, anche questo l'ho recuperato, era tutto messo sciolto, lì l'ho recuperato, e insomma questo lo volevo mettere in macchina, il software lo volevo mettere qua, in stazione fissa, sempre se vai in trasmissione. E per l'SDE quanti canali c'ha? Come? L'SDE quanti canali c'ha? 23 canali. Ok, ma bene funziona? Sì, già, sta funzionando bene. Prima non mi piaceva la radio, però era una... sicuramente dipendeva dalla colonnina, perché la colonnina che aveva dentro era tutta ossidata, tutta rugginosa, se non è sceso a pezzi. E allora gliel'ho tolta gli ho messo un'altra colonnina così in catrata in mezzo ai fili con lo spinotto, un pezzo di filo che esce, si raccorda al jack dell'apparato lì che c'è all'esterno. Sì. Stavo dicendo, io ne ho uno da padre, ne sono via uno da padre, cioè un 1040 canali da solo il padre, siccome ne ho tutti, hai capito, lo dovrei anche dare in cambio di un 2%, perché io colleziono apparecchi a 23 canali, e lo dovrei anche dare in cambio di un 23, cioè un 1040 canali da solo il padre, hai capito, c'è anche le palle laterali, e io siccome che colleziono più paracchini a 23 canali, lo vorrei dare anche via a cambio. Attento! Cazzo, registrato l'attento un attimino. Vai, lo vorresti scambiare con quale? Con guarda. Con le sedie, io se tieni ho tanti, io colleziono paracchini a 23 canali cataduti, in senso che ormai frequenta lo fanno tutti, sì, hai capito? Io non so se ce l'ho, ripeto, ma non lo so, anzi poi lo attendo, modulo con quello. Aspetta, perché anch'io modulo con 23 canali, hai capito? Se lo faccio con 40 canali, facciamo quelli di realtà più fresche, facciamo. Tappa, ciao Capri 2, Marco Baramobile sulla 131, ti ascolto mediamente bene, invece l'amico di Usine è un po' più basso, Break? Registrato il break, ok Marco, sì, sei sulla 131 in direzione, dove sei andato? Allora, direzione Porto Torres, adesso ti ho ascoltato che sono più in alto, Buonasera a tutti, ho sentito anche Luca, riprendi K2 e rimanda per Luca. Positivo, va bene, avanti Luca, qua K2, copiati a Udini. Ok, dai, buonasera a tutti, ciao Marco, ciao K2, ciao Gianni K2, non so poi Gianni doppio rumo mi sa che c'è, non mi ricordo, se non mi ricordo male, perché prima l'ho sentito. Niente, avanti, non so come mi ascoltate, perché io ho dei problemi qua, sono lo Smith che va e viene, poi siccome ho asportato il mobile, sicuramente non fa contatto bene il VL, avanti. Ehi Kappa, Luca, ok dai, riprendo io. Beh, sì, tipo, ti ascolto bene qua, sono Santiago Otto. Qui all'altro passaggio mi dirai dove stai modulando. Riprendi Capri 2. Ah, è andato a aprire la porta. Luca, dove stai modulando? Ok dai, qua a Sassa di zona Monterosello, qua segnale tu, vabbè c'ho un po' lo Smith per i fatti suoi, segnale, fa un passaggio, mi sa che è 5, vai, prova. 1, 2, 3, 4, io sono qua, non sono proprio a uso di paese, sono nel QTH a Campagnolo ed è una zona negativa perché sono dentro un fosso, quindi se il segnale 5 va più che bene, riprendi Luca. No, segnale 7 picchi positivi da me. La radio non è 5 ma è 4, ma ti ascolto abbastanza bene, dai, non c'è problema. Però mi interessa la radio come sta arrivando, guarda, te lo metto un po', perché io di solito lo uso qua a 2, qua in, diciamo, quando parliamo tra di due, se no è troppo alto e non mi capisco. Avanti, riprendi per far girare. Di K, tu stai arrivando nuovo invece, perché questo sniffer è cieco e un po' anch'io non è che come vista sia proprio un'aquila, però adesso guardato bene lì, stai arrivando 9, la radio è buona, la sua va tutto bene. Ok, vediamo un po', riprendi Marco, vai. A chi hanno rilanciato? A me. K2 ti ascolto basso e sono lì punti, poi sei più basso. Luca io lo sento con la radio consueta, per me va bene, il segnale non te lo posso dare perché sono in barra mobile, vieni avanti Luca. Vabbè, questi arrivano benissimo qua, amico di Usini, vabbè, comunque zona lì, sì, 7 a picchi positivi, no, 5, 7, ma perché positivo? Avanti, ma qui stiamo andando a bomba, avanti. Ok, barra mobile, apparato Omega Force, quindi i modulati sono massimo una quarantina modulati, seppure. L'antenna è la solita. Adesso faccio venire avanti Capri 2, che dovrebbe arrivare bene anche qua. Avanti Capri 2. Sì, ti ascolto, senti a segnale 4-5, però ancora arrivi, Ma si è calato molto, Guarda, la 7 si è calato a praticamente a 2, a 3, si è calato a 3, La radio comprensibile, ma il segnale è calato drasticamente. Riprendi ancora. Capita è la questione, avevi 100 watt sotto. Vabbè, allora insomma dai, va bene, sei liscio, va bene. Quanti watt c'ha quello? Quindi 5, no? Va bene, allora va bene, anch'io sono liscio qua. Ok, riprendi Luca, vai. Già hai capito, mi ascolti? Luca, io non sento più nessuno di loro, eh. Allora Gianni, aspetta. Hai rilasciato a me, Capri? Va bene, dai, va bene. Un attimo di disattenzione da parte mia. Recuperato adesso. Va bene, vai Marco Condor. Dimmi ancora se mi ascolti e la tua posizione, via. Mi sa che non mi ha sentito. Luca, riprendilo tu, vai. Ciao, Marco, mi senti? Sì, Luca, tu sei l'unico che arriva qua e sei l'unico che arriva. Dove sei, Marco? Ottava, ho passato il discesone di ottava e sto entrando a ottava. No, tu arrivi a bomba lo stesso qua, sì, comunque, radio bella 5, ti ascolto benissimo. Niente, io ho capito, lo sento basso, prima lo sentivo bello pimpante, forte. Lo sento praticamente che lo copre una, non so, propagazione. Gianni, capito, aumenta, perché qua non arrivi, avanti. Io ti ascolto sempre allo stesso segnale, per me va bene per me. E ottava, è per me un po' negativa quella zona. Ma forse adesso una volta che inizio a fare le salite lì, le sale verso il divio di Platamona lì, dovrei riuscire a sentirlo bene. Riprendi il Condor se mi hai copiato. Allora, vi ascolto piccoli, vi ascolto piccoli, però ancora arrivato. Ci ascolti piccoli. Allora qua il leone lo fa Luca, riprendi Luca. Sì, non è che... No, qua arriva benissimo, vabbè, io per la zona lì sono abbastanza, oddio, diciamo un 70%, dai, 60% per il buon dottore, se non è che sia proprio buono, ma comunque, secondo me lo sento. Comunque, per il momento lo sento sempre bene. L'unico che sento basso, che il passaggio che ha fatto Gianni non l'ho sentito perché non coprono. Gianni, se non aumenti io non riesco a tirarti fuori. Avanti K2, ma K2. Sì, Roger. Ok. Gianni, allora metti qualcosa. Altrimenti ci tagliamo fuori, Amici, mi copiate? Sì, ti copiamo abbastanza bene. Chi sei? K2 qua, riprendi. Ciao Marco da Questa, io e te siamo parlati probabilmente sarà roba di 2 mesi fa o di sera tardi, ero a luce del sasso, invece ora sono al mercato sotto piccolo. Scusa, vuoi ripetere, non ho copiato il passaggio. Ho detto che sono Marco, io e te ci siamo parlati forse 2 mesi fa, una sera tardi, mentre io ripartivo da Sassari, ora invece sono al mercato ortofrutticolo, come mi copi? Ah, ma poi sta bene Marco, non mi ricordo, ti ho parlato di una barra pesante, suppongo che tu sia una barra pesante, vabbè, 2 giorni fa mi sembra, non so se sei lo stesso, perché non mi hai detto il nominativo, ma forse Marco, sì, forse... Gherudini tornati di Sissi, sei tu? No, negativo, no, noi ci siamo conosciuti, ripeto, almeno 2 mesi fa, dai, no, 2 giorni fa non ero io, magari coincidenza, stesso nome. Ah, va bene, dai, ok, allora ti mando avanti Luca, e poi c'è Capri 2 da Muros, e Marco Condor, direzione Porto Torre. Ok, vai Luca. Positivo, ciao, anche l'amico, ho copiato nominativo, comunque saluzioni. Da questa parte Luca, qua ti ascolto benissimo, questa è una zona, penso di arrivare bene anche io. Adesso ti rilancio Marcolino, vediamo un po' se mi ascolta ancora, vai Marco. Ciao, ciao Luca, ti ascolto sempre, il segnale oscilla da 7 a 9, 9 più anche. Sì, mi ascolti tu, vedi un po', come sentirai dalla voce sono visibilmente raffreddato, o meglio ho la gola in fiamme. No, ti ascolto bene, oscillante, adesso sei 5, 7, 5, 7, avanti l'amico che è al mercato, avanti. No, io vi copio tutti e tre abbastanza bene, dai, non so voi a me, perché ho qualche problemino alla portante, però per il resto io vi copio veramente abbastanza bene, soprattutto sei pulito pulito. Positivo, anche tu arrivi benissimo qua, avanti Capri 2. E ok, adesso sto, diciamo, adottato un altro sistema, non so, immagino che mi state ascoltando, K2 mi ascolti adesso. Sì, Roger, sei uguale 8, magari sono meglio anche gli altri, non possibile al centro, almeno non si fa fatica già, va bene, hai ascoltato l'amico Marco lì al mercato? Non so se mi ascolta, attenzione Marco, ci ascolti che altri due cambio. Gappa gappa, vi ascolto molto bene e vorrei da voi cercare un giudizio di come ti arrivo. Senti, mi arrivi Santiago di Crena, radio, diciamo, immagino che sia in movimento, comunque ti ascolto e a tratti riesco a ascoltarti. Tutto lì, rimetto il cambio a Marco Fondolo se mi ascolta. Marco, mi ascolti? Gappa, ti ascolto, attenzione, Capri 2, arrivi Santiago 3, 4 oscillante, però ti ascolto. Ok, sono adottato delle misure, già sta funzionando allora, eh. Ok, perfetto, Luca, anche tu mi ascolti, confermi. Giusto, adesso sì il segnale Capri 2, segnale 9, prima di mettere al QRM, ultimo, la bomba. Ok, lo metto un po' di vitamine. Un po' di vitamine, gli ho inserito un altro microfono al Midland, la stazione base, sempre Midland 40 canali, ok. Quindi già sta uscendo l'apparecchio, riprendi il K2. Perfetto, perfetto. Per l'amico Marco lì al mercato, io ti sto ricevendo in agro di Usini, in Cucciata Campagnolo, la mia zona è negativa, perché sono dentro un fosso, però stai arrivando con, con un segnale di 5, una radio comprensibile, pulita e un po' amplificata, e va bene come radio, riprendi Marco. Ciao, grazie, dai, tu invece sei splendido, esci benissimo, ti copio veramente bene. Adesso, signori miei, io vi saluto tutti perché mi sta prendendo mercato, devo farvi il mio scarichino, e se poi coincide, siete ancora su questo canale, magari come esco più tardi vi do un altro salutino. Buon proseguo e in tal caso buon fine di settimana a tutti. Ciao ciao da Marco, ciao ciao. Ok Marco, salutoni, buona serata e buon lavoro se devi lavorare lì. Alle prossime, bussa quando ci senti, a noi farà piacere poter scambiare quattro chiacchiere con te. Ok, vai Luca per l'amico. Marco, sei arrivato? Come che ho copiato? Sono adesso da Marco, un altro amico. Sono un po' rincoglionito oggi, vabbè, sono giro di. Vabbè, niente, scusatemi, avanti, riprendi tu, K2, va. Ehi, K, vai, K2 per l'amico, sta facendo QRT, Marco, sta facendo il QRT, vai, ma Capri. Perfetto, QSL, ciao allora Marco, buon QRT, buon tutto, sempre qui Gianni K2 che ti sta modulando. Niente, vediamo Marco Fondo se riesce ancora a ascoltarmi. Attenzione Marco Fondo, se ascolti ancora K2, cambio. Cappa Gianni, sono arrivato alla rotonda di Platamona, vedi se mi ascolti. Ti ascolto, dimmi come mi stai ascoltando tu in quei prezzi, cambio. Sento Marco Fondo, se ascolti. Oh Gianni, provo a contattarlo io, vediamo se mi senti. Attenzione Marco Fondo da K2. Attento Capri 2. Mi ascolti Marco? Cappa Gianni, stai arrivando un segnale 4-5 circa, dai. Con questo apparato è difficile dare segnali, però stai arrivando e la radio è anche chiara. Sì, perfetto, ti stava chiamando l'amico K2, QTH Usini. Niente, l'amico Marco si trova a rotonda di Platamona, K2. E io vi chiamo, rilancio a te e troverai a farle chiamata. Avanti, K2 e K2 ti rimetti il cambio, vai. Roger. Sì, lo ascolto io, segnale di uno, però lo ascolto, mi sa che lui non mi ascolta lì, alla zona rotonda Platamona. Marco Condor, mi hai copiato? Negativo. Mi arriva il segnale, niente, sento la modulazione ma è troppo basso, Sì, a me invece mi ascolti sempre Marco, confermi, ti stava chiamando. Ha detto che lui ti ascolta molto basso lo stesso, invece a me mi ascolti Marco. Sì, ti ascolto, io sono fermo a tutti gli effetti, Che io riesco a ascoltarti lo stesso con lo Santiago di 4 e la radio è comprensibilissima. Ok, riprendi K2, prova a richiamarlo. Positivo, aspetta, quando la piazza sul petto, ma va è proprio a livello di tratto inglese, abitante di tratto sardo. Attenzione Marco Condor da K2. Ho sentito la voce sul fondo, ma non si capisce bene. Luca c'è, attenzione Luca. Ci sono sempre, dimmi tutto. Ehi, fai un passaggio Luca. Ma parli sempre bene Marco, bella radio. Il segnale è calato molto, però ti ascolto bene, non c'è problema. Quello che conta la radio, dai, arrivi benissimo, avanti. Qua stai arrivando una cosa tipo Santiago 7, Luca. Guarda il mio, quando modulo. Ora. 7 picchi di 8, radio 5. Ok, buono Luca, stai andando bene per quanto mi riguarda, Le stazionarie le hai controllate? Io? E io? No, adesso quando l'antenna è asciutta, che sono belle giornate, no, è a posto. Quando piove un po' mi salgo, tipo 1,7, 1,8. Saranno 1,3 adesso circa, 1,4, dai, non è calata bene con l'antenna. Ok, capito. Ascolta, prova a fare chiamata per Pomponio, che quando ero a Sassari lo sentivo, che ha fatto un passaggio. Pompo, ci sei? Dove? Sento Antonello Pomponio, Pomponio, se sei all'ascolto. Ci so, ci so. Ciao, già. Va, se fighi di voi, ma... Ma cosa vuoi? Ti faccio parlare con uno? Comunque dai, comunque diciamo Gianni, avanti, riprendi tu K2, vai a farci dare. Sì, Roger, va bene, mi sa che io mi stacco adesso, dai. È arrivato il momento che devo mettermi in movimento e quindi per il momento faccio QRT. Quindi Luca, a risentirci, a presto. Idem per Gianni Capri 2 e anche per Marco Condor lì a zona marina. Salutoni a tutti e al più presto, adesso sarò più attivo in questi giorni, dai. Riprendo Capri 2 e poi ascolto i vostri finali e poi faccio click. Ciao K2! Due salutoni, due QRT e anche io Viziano mi stacco, però faccio il QRT, sì, ascolto e saluto Viziano anche io a Marco Fondo di quel QTH di Papa Lima Alfa e niente, non che Luca e non che tutti gli amici che sono in ascolto su questo canale. Rimetto il cambio a Luca e farà girare, io faccio il QRT, sì. E diciamo non mi prendo, poi magari tra un po' se sentite mi riaffaccerò con un prezzo. Avanti Luca. Però che dai, scusate, comunque ciao K2, alla prossima. Ciao K2, più tardi io mi assento verso al telefono e lascio il microfono a Marco. Avanti Marco. Stanno parlando? No, negativo, ti ho rilasciato a te Marco. Che stavo parlando in verticale. Allora, ciao Capri2, ci sentiamo alle prossime. Sicuramente se avessi avuto un'antenna sul tetto sareste arrivato anche meglio, ok. Avanti Gianni, buonasera, stai andando a lavoro, vedo, il segnale comincia ad andare a bamboletta. A lavoro? Guarda che io sono qua al monte. Stanno tutti andando e mi sa che me ne sono a casa. Ah, ma sei in ferie Gianni? No, entro alle 5:30 io. Ah, ho capito, va bene. Ok, ti ascolto bene. Ciao, ciao. Come ti arrivo? Dove sei? Rotonda di Platamona. Scusa che ho la gola infiammata già, mi è venuta una bocciaccia. No, negativo, non si è sentito nulla. Ah, la rotonda, sì. Sei andato a controllare a farti la passeggiata? Scappa, ho portato mamma a pascolare. Sta arrivando fino a nove, oscillante. Salutami a Liu. Ciao, sono Liu, come va? Ciao Liu, mi sentite? A prendere il sole siete andati, ma c'è un po' di freddino, Si basta stare in macchina e prendersi il sole dietro i vetri. No, io scendo adesso. Kappa. Qui Marco, io sono esattamente dove ci mettiamo sempre, dai. Caspita già, sei arrivato 9:05. Sei arrivato in un momento, sei arrivato anche a 9:05, se non di più, Ma se la volta è una grande, Marco, capito? Ah, l'antenna buona, ok, buonasera, chi è entrato? Ciao Marco e ciao Gianni. Ciao Benito, ben sentito anche a te. Ciao Benito, Santiago 9, buono. Dove sei? Illuminami che non me ne ricordo. Quinto pettine, io sono con un'antenna magnetica e conta, quindi perdo un pochino di segnale. Guarda il mio segnale, guarda, ola, ola. va bene, da. Conta che questo Switzer è un po' tizio, se no magari segna 9, ma se anche 9-5 o giù di lì. Ok, rilanciamo Luca da Sassari, se all'ascolto. Attento Luca. È al telefono. Con Falcone. Cazzo gaffa. Ma guarda un po'. Tirali una sussa di un. Faccio da monello. Io non ne faccio da monello, non abbastanza, dai, da beccarmi una sussa. No, già sei bravo. Scherzo. Com'è il mare lì a Platamona? Mosso? Leggermente già. Ci sono i punti dove vedi più l'onda piccola e certi punti che viene meno onda. Comunque è leggermente mosso, dai, c'è un po' di vento qua, freddo. Gappa. Mi ha detto da un po' di tempo che non lo usavo, ero attaccata l'antenna. A vedere come andava. Quella è sempre una bomba, Gianni, ricordati che l'antenna da 2003 è sempre meglio che l'antenna da... quanto è? 70 l'altra? Non è 70, è 55 infatti. Ma rende sempre meglio questa è una potenza. Potessi metterla io in macchina, ma il testo ha detto che non fa buca. No, assolutamente no. Ma che... come ti dove c'è l'antenna della radio e praticamente quella della radio la metti a portapollo. No già, sai perché? Metterla dietro non va bene, nemmeno i lati. Se si buca al centro tetto è la soluzione migliore. Perché il lobo di radiazione diventa tondo, giusto, o ovale comunque, cioè prende proprio il massimo del piano riflettente. Ah, io sono qua, cioè di solito sta così bene, guarda. Ah, la panoramica. Quando ti arrivo? Questa antenna è come la manto, vai. Non c'è paragone. Noto che anche Gianni ha dei picchi di modulazione mostruosi. Marco. Tante volte per l'estetica non si vede, però quando sono grandi le antenne vanno meglio. Comunque qua 40 watt modulati non me li dà, modulati me ne darà una ventina immagino, se modulo 40 ne dà lo fisico, mi guarda Tu sei 9 di segnale, va? Eia, fischiando 9, ok. Fischiando 9 e 20. Okay. Riprendete voi che scendo un attimo dalla macchina per vedere com'è il clima. Scendi pure. No, la panoramica proprio dove c'è lo spiazzo, dove c'è lo spiazzo, ma non so se ce l'ho presente. Ah, dove c'è la strada vicenda? Adesso ci siamo. No, la panoramica al monte, a Sassari. A Sassari, San Francesco, dimmi, capisci? Più o meno, sì, più o meno sono lì. già arrivi. Prova che ti lo segnalo. Ho tornato io, quello che uso da cannoncino. Adesso sono, dell'altro sono specchio, quello che mi dico qua, quello mi faccio qui, guarda. Santiago 9, Radio 5, cambio. Marco Condor, cambio. K, Gianni, comunque l'aria sì, è freschina, ma non fredda quanto credevo io, eh. Sì, perché già si sta mettendo un po' a posto il tempo, però poi dice che sarà una perturbazione allucinante. Invece ieri, mi pare ieri, c'era, vabbè il cielo coperto, c'era vento, ho sentito vento e un po' più freddo mi pare. Sì, ieri c'era un po' di freddo. Aspetta che trovo, eh. Ora, vediamo, 20 centimetri. Ora, allora che faccia ora a 20 o a 10 non cambia nulla, eh. Ah, poi pare che faccio saltare un fiori. Noi staremo qua per quanto? Perché poi andiamo a Porto Torres se andiamo. Aspetta, il mare sì, poco agitato, però le sue spumette bianche le sta dando, adesso che guardo l'orizzonte. Cavagava. Io mi sono in movimento, Via, c'è qualcuno che passa giù in spiaggia, qualche disperato da. Vabbè. Ci sono quelli che non c'hanno nulla da fare e beati loro che possono passeggiare, sempre che siano pensionati o che abbiano un introito, perché se sono disoccupati non sono beati. Eia, due persone grandi sono, poi c'è una più giovane, da sola e adesso la bordo io. Ma io da poco ho visto due tedeschi facendosi il bagno, lo sai. Pensa a quelli che in Norvegia praticamente quando c'è l'inverno nostro per loro è estate. Non temono il freddo, vabbè, poi in Germania siamo abituati, c'è sempre il freddo, capito? Ma lei l'acqua non è manco fredda, eh? No, io non mi fiderei tanto, Ma io mi ricordo che d'inverno per più volte ho fatto pesca subacquea, però ho sempre con la mucca, avevo il pallino e mi piaceva andare a pescare spesso. Avanti! Ho benissimo. Qualcuno sta aspettando il posto dietro. Kappa. Io vi ascolto abbastanza bene qua, Ok, comunque benissimo. Se tu sei al quinto pettine avrei immaginato un segnale migliore con la portante muta, guarda la portante muta, sono 4 vacche. Tu sei verso il mare o sei più interno? Ah ok, vabbè, no, perché se fosse stato vicino al mare sarebbe più alto il segnale. Ascolta, ho notato un fenomeno strano che non succede da nessun'altra parte. Io sono fermo in macchina, no? E quando ascolto voi vedo che il vostro segnale sale e scende, sale e scende, e la tenne è ferma però, non è mossa dal vento, e mi succede solo in riva al mare, cosa può essere? È come se ci fosse propagazione, quando senti uno da fuori, scende e sale, me lo fa solo in riva al mare, secondo me c'entra la riflessione delle onde pure. Ora si sta muovendo l'antenna, Marco, controlla. No Gianni, l'antenna è ferma, è ferma. Fenomeni della natura. I misteri della natura, bobo. Siamo lì come voi. Sono cose voi, a volte sono spiegate. E io, va bene. Signori, vi saluto un attimino, che qua scendiamo dalla macchina. Sentiamo dopo se ci siete. Ciao a tutti. Ciao Marco, avanti, bene. Ciao Marco, mi piace che ci siamo. E ancora due minuti, per piacere la sua Sei pure, l'ho visto. Il vicino, perché posso fare un 4 mani? Se mi chiamo altre cose, devo andare a... sì. All'ordine in campagna, così per difesa personale. Io c'ho un collega che è partito, di scaccia, scaccia a cinghiale, tutti i tipi di scaccia qua. È proprio partito, non era fottuto da che paga un bene, adesso che non ne frega nulla, che lui le piace troppo, è proprio preso. E loro ne prendono a parecchi cinghiali, è una bella compagnia, risorso, so. Se sei ai posti. Sì, già non c'eravamo le zone, dai, le zone qui a Magistrato. Sì, ci sono dei posti che sono veramente... Una volta abbiamo fatto una simulazione lì a Portoferro di notte e ci hanno chiamato la prefettura per fare la simulazione come protezione civile. Siamo entrati con le Rover e con Faro a Portoferro, vedete, ne vedevi i cinghiali scappando. C'era la sua con i cinghialetti. C'era? Il maiale femmina con i maialetti. E lì non si possono calciare, però molte volte le macchine li prendono in piedi e ci facciano la macchina a bus. Sì, no, per quello che lo stai dicendo. Sì, sono tornato. bombare, vabbè, divertite, vabbè. Auguri a tutti, auguri. Vedi, un altro figlio sei nato. Cosa già? Ho detto un altro figlio sei nato. Un altro. Ho sentito che ho fatto gli auguri, pensavo per questo. Ehi, non fare lui, no, no. Già, che sai, Fernando con questi, no, nel senso che sono disco. Lui ne sta combattendo uno che non vuole farsi i compiti. Cava, cava, dai, vabbè. Già sono anche giù i bambini, dai. Poi quando diventano grandi, diciamo, è diverso, ma quando sono piccoli già fanno piacere, dai. Fanno sempre piacere quando mi compro la scatola. Quando sono grandi che sono troppo in su. Vabbè, che devo fare? Devo smontare la cavalletta e ripiazzarla. Guida. Bravo. Fa freddo, può pulirla? Sì, relax. Beh, ma tu sì. Eia, male sta andando, è freddo. No, è una modulazione probabilmente diversa e forse era meglio prima. È freddo. Voglio cambiare la predisposizione, voglio mettere il letto da un'altra parte, quindi lo devo smontare e ripiazzare. La prendo, sì. Lo so scaldare, che magari già si riprende. Sì, perché anche questo c'è, no? Devi smontare e poi cambiare la cosa. Devo togliere un po' di mensole, girare l'armadio, girare il letto, mettere la scrivania, insomma, un po' di la cassettiera, un po' di cose, devo ripristinare tutto, devo svuotare i mobili perché sono pieni e quindi, come ho detto, adesso ci devono a fare. Eia, vabbè, va, divertita, va. Grazie, bene, ciao, ciao. Ciao Tino, vai, buon pomeriggio, ascolto. Avanti, Brito, come mi ascolti? No, sto scendendo giù alla rotonda. Mi fumo una sigaretta e poi vado a lavorare, dai. Ma non mi voglio oggi stare a riposare, dai. Non faccio mai nulla, se no, se sto sotto al letto, un diretto voglio far bene. Tanto per passare il tempo, poi già non c'è tanto freddo, c'è il sole, quindi già va bene, dai. Non c'è molta umidità. E beh, già, dove ci? Io sto scendendo a Patamona, alla rotonda. Ehi, noi siamo qua, L'aria è meno fredda di quello che credevo io. Vai, io ci sono giù un posto, io sono giù un posto se c'è freddo. Sto vedendo con una felpa, ma se c'è freddo mi pongo giù un posto, non c'è problema. Ok, vabbè, ci sono varie persone, più di prima adesso, ci sono cani, bambini, persone, di tutti, bestie di tutti i tipi. Vabbè, ma l'altra volta sono andato e c'erano quelli che facevano il sesso con la vela, ogni abrigo lo facevano, volavano, facevano la capriola in aria e poi riscendevano, troppo abili. Eia, kite surf, no, oggi no, non c'è abbastanza vento. Se no li avresti visti anche oggi. Oh, hai avuto modo di vederli? Io li ho visti altre volte, anni precedenti. Li ho visti. Certi decollavano mi da quanto tirava l'aquilone. Ehi, li portavo in alto, facevano anche la capriola in alto. C'erano certi che facevano la capriola e tu li scendeva. Ehi, avanti bene. Ah, lo facevi? Sì, l'ho fatto per un annetto, perché c'era un collega che le era fatto per annetto. Allora, piano piano, lui mi aveva dato... Era pulito. Come è che andava a pulire? Cavagava. È divertente, arrivi in spiaggia ogni volta quando c'è il vento a passare la vela, tutto tanto, un casino. E ho visto che si aiutano con l'altro, perché se no ce la farebbe. 9.30 sei già, guarda che si sta liberando un posto, fronte mare, sulla destra appena arrivi. Ehi, lo vedi il posto, o la mia antenna, lo vedi? Ok, ok Joe. Davvero che ci sono abbastanza macchine, salvo. Ma io già, se ti sbrighi trovi il posto. A fianco a te. Eia, c'è un posto ancora libero, eccoti, va, no, beh, vieni, vieni avanti. Benissimo, ti sono trovato, ho trovato Marco qua. Capita, va, capita, scappa benito, puoi rixi un attimo. Marco, Gianni, ci sei già? Stanno parlando lì sulla rotonda, sono quasi sulla spiaggia, sia Gianni che Marco. Io sono Liu, ciao. Ciao Liu, ciao, buonasera, grazie. Chi è, chi è? Avanti, vieni. Sono ancora fermo lì, non mi sono mosso ancora. stava male, invece la fa lontanare un po'. E Marcus, oggi è sabato, domani andrò questa settimana a farmi una passeggiata, a fare un po' di foto. No, vedi che forse a chiudo. E la continua che stanno fanno qui, adesso la stava già, vabbè. Comunque, un bel genere sta venendo a spostare. Stanno mettendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camion oggi. Sì, almeno per me, io... Vabbè, sì. Ah, sì. E vabbè. Ma ora, vabbè, posso dire. E vabbè, vanno lì. Hai fatto la tua, che mamma è tanto già inviata, già nel sentito. Guardare, non toccare, non toccare, non soffrire. Sì, guardare, non toccare, si soffre, ma... Almeno è a costo zero già. Oh, adesso sì che sono pianeggiante, bello. Qua c'è una bella vista anche per i 10. Sono attaccato alla chiesa. Allora, vai lì, sì, io è di lusso. Però non c'è posto a fermarsi, cavolo. O ti metti davanti alla chiesa, oppure a fianco alla chiesa non si può più fermare. È pieno già, è sempre pieno il parcheggio. Attenzione, Papa Torres, chi è l'ascolto? Avanti. C'è un fornitore che ascolta sul canale 12. Ah, così? Solo un canale hanno loro? Beh, solitamente si trovano lì. Ci abbiamo un'occhiata, io. Non ho capito chi era l'altro, se è un genio o chi è. Avanti! Ciao. ok, stai staccando perché stai incominciando il tuo trabacco. Va bene, alle prossimine. Ciao Marco Condor, seguici dalle prossime. Avanti Silvio. Va bene, dai, ok. Già va più che bene. Dai, io ho fatto una piccola penichella, adesso mi prendo il caffè. Cos'è successo? Boh, seduto. Attenzione, Bordo Torres. Vento sono Bordo Torres, Antonio Bombo, cambio. Cappa, buonasera Antonio Bombo. Buonasera anche a te. Ciao. Ti sento un pochettino più a te Giampa, sento più bene a Sandro. Cosa ha detto Sandro? Ok, va bene. Antonio Bombo, dove sei? A casa sono. Ok, va benissimo. No, pensavo ci avevo l'amplificatore l'antenna inserito e pensavo che fosse il ritorno. Va bene, mi ricevi, sì? No, ho capito, già fa. Fischio, qual è fischio? Ah, evidentemente col volume troppo alto, magari innesca, non lo so, magari c'ho anche la batteria mezzo scarica di questo mic. Vabbè, Antonio, Momo? Sei davanti. Gappa, ok, ha detto, ma mi ascolti, sì? Papà che ti ascolto. Va bene. Ehi, tu mi ascolti lì a Porto Torres? Gappa che ti ascolto, vai. Ti ascolto un po' bassino, ma comunque riesco a tirarti fuori. Va bene, dai, ti chiedo un attimino di bianco che prendo un attimino la caffeina.